tra poco un altro argomento all'interno del Parapiglia. Parleremo di lotte curde, in particolare delle due manifestazioni che si sono tenute venerdì scorso, cioè in realtà se ne sono tenute tante in tutta Europa. Noi parleremo di quella, diciamo, lanciata come europea a Parigi e di quella romana, una appunto manifestazione che si sono tenute nel secondo anniversario dell'omicidio di tre compagne curde che sono state appunto ammazzate a Parigi nel 9 di gennaio di 2 anni fa, e su cui ancora, insomma, non c'è stato nessun tipo di chiarimento, per cui la manifestazione a Roma si è tenuta in Piazza Farnese davanti all'ambasciata. Eccoci, dovremmo esserci con una compagna di Rete Kurdistan. Pronto, ci senti? Sì, ci sono. Ciao. E appunto pensavamo, venerdì scorso il 9 gennaio era il secondo anniversario dell'omicidio di queste tre compagne curde, forse potremmo ripartire da lì, insomma, da raccontare chi erano queste tre donne e cosa è successo 2 anni fa. Certo, scusate, 2 anni fa è stato veramente come uno shock per tutti i compagni, le compagne curde, di conseguenza anche per chi li sostiene, per gli amici dei curdi e delle curde che sono in Europa e non solo. Ovviamente è stato uno shock tremendo, perché l'aver colpito deliberatamente poi nel cuore di Parigi, quindi nel cuore d'Europa, queste tre donne che rappresentavano in maniera differente, ma tre donne impegnate per una vita libera, per una soluzione della questione curda in modi diversi, con esperienze diverse, ovviamente con vite diverse alle spalle, ma unite dallo stesso bisogno, dalla stessa necessità di appunto impegnarsi in prima persona, sacrificando anche a volte la propria vita, o diciamo vivendola fino in fondo per la lotta, per questo impegno. Ecco, è stato appunto uno shock terribile, uno shock che però diciamo non è stato adeguatamente compreso anche dal resto del mondo. Sì, si sono viste le manifestazioni scusate, le manifestazioni grandi, partecipate nell'immediatezza del dopo omicidio. Si è assistito però più che a un solidarizzare di tutto il mondo con i curdi così duramente colpiti, come in questi giorni, no, si vede magari per altre vicende, c'è stato invece lo spazio, ahimè, su giornali e da parte dei governi per tentare addirittura di far andare le indagini in una direzione completamente falsa. Addirittura si parlò, alcuni giornali chiaramente poi in questo pilotati anche da informazioni ricevute da servizi segreti turchi e altro, si parlò di regolamento di conti all'interno del PKK e altre assurde tesi del genere. Grazie, devo dire, a un lavoro anche di controinformazione, di raccolta di indizi, di controllo che hanno fatto i curdi stessi, quindi come al solito ci insegnano che non serve aspettarsi la verità da qualche altra parte, che forse bisogna cercarla in primo luogo rimboccandosi le maniche e andando a scovare dove si annida. Sono riusciti a ricostruire e a trovare elementi utili anche a capire chi ha commesso questi omicidi. e non parlo soltanto ovviamente di quello che è stato poi arrestato come il presunto esecutore materiale dell'omicidio, cioè Omergo Ney, ma anche appunto dei contatti che questo Omergo Ney, infiltratosi diciamo nel movimento curdo a Parigi, nelle associazioni, nella comunità curda di Parigi, ha intrattenuto prima di appunto nei mesi precedenti, diciamo nelle settimane precedenti all'attacco all'assassinio delle tre donne, quindi con i servizi turchi, perché questo Omergo Ney ha viaggiato diverse volte in Turchia, ha avuto contatti e questo è uscito per l'appunto anche grazie a quest'opera di controinformazione che hanno fatto questi compagni curdi. E le tre donne appunto diciamo sono emblematiche come obiettivo che è stato preso di mira per la loro storia, in particolare la storia di Eva Lasara, di Sakine Janzis, che è stata fra le fondatrici, una delle due donne fondatrici del PKK, e che spiega anche un po' quello che sembra tra virgolette piovuto dal cielo oggi, secondo questo meccanismo anche sempre che mettono in atto i media, come se prima non fosse successo niente e improvvisamente poi avviene qualcosa di o catastrofico o un grave attacco, oppure nel caso invece dell'interesse che comunque c'è stato rispetto alle donne curde combattenti a Kobani, per esempio nel Kurdistan siriano, come se questa esperienza di donne combattenti piovesse per l'appunto dal cielo. Ecco, Sakine Janzis è stata e continua ad essere, perché rappresenta anche dopo la sua morte, ma comunque con il suo lavoro concreto tra le donne negli anni 70 in Kurdistan, è stata una delle artefici di questo movimento delle donne che oggi ha portato in Rojava a quello che appunto stiamo osservando negli ultimi tempi, ma ancor prima a nord, quindi nel nord Kurdistan, nella parte turca, a costituire un forte movimento di donne con una sua propria autonomia anche rispetto al movimento curdo, cioè facendone parte, essendone parte ovviamente, ma articolandolo e vivendolo in maniera autonoma, trovando degli spazi propri come donne, e quindi è qualcosa che appunto non piove dal cielo, ma è un lavoro paziente che è stato fatto da Sakine Janzis e da molte altre donne insieme a lei. Sì, dà anche come sì, dire una solidarietà, diciamo, comunque un obiettivo anche lei, nel senso che simbolicamente si è voluto dare un messaggio anche agli esuli in Europa, ai profughi, agli esuli che vista la repressione nei paesi di origine sono arrivati in Europa e hanno chiesto asilo, ma hanno continuato a svolgere un'opera di diplomazia in questo caso, quindi di advocacy, di sollecitazione dei paesi europei, dei governi, dei parlamenti e anche della popolazione, quindi dei popoli, con la sua opera appunto Fidando An, e Leila, la più giovane, che rappresentava comunque una scelta appunto ancora giovane, quindi possiamo dire di meno di lei se vogliamo, ma anche lei rappresenta la scelta radicale che può fare una ragazza curda, di origine curda, cresciuta in Europa, e che però non dimentica il suo paese, non dimentica l'oppressione del suo popolo e decide comunque di mettersi al servizio di questa lotta, dedicando tutta la sua vita. Sì, appunto, questa anche conoscere questa storia significa anche dare, come dire, una profondità solida a quello che sta succedendo in Rojava, perché altrimenti, insomma, nella lettura mainstream, che peraltro scarsa, ma insomma quando c'è sembra che sia una cosa avvenuta non si sa bene come, questa autogestione in cui anche la critica femminista ha grande parte, insomma, nella costruzione di questa autogestione regionale, e invece in questo modo, insomma, questa storia ci permette appunto di capire che c'è niente di, come dire, di mass mediatico e molto di sostanza. Sì, esattamente, proprio un lavoro che è stato pazientemente costruito, che ha cominciato Sakinè appunto alla fine degli anni 70, poi dopo è stata in prigione tanti anni, ma poi ha proseguito, e significava anche andare per esempio casa per casa, dalle famiglie a parlare con le madri e con le figlie che andavano per esempio a scuola e che potevano essere coinvolte nella lotta di liberazione, ma bisognava convincere le madri anche della bontà di questa cosa. E insomma, una madre ovviamente, una madre curda, possiamo immaginarci come magari fosse preoccupata che la propria figlia facesse una scelta radicale di dedicarsi alla lotta politica e addirittura contro appunto la repressione, cioè sfidando la repressione dello Stato turco, e quindi rischiando la prigione, rischiando di rovinarsi la vita in pratica, secondo questa lettura. Ecco, anche lì un grande lavoro di informazione, di sensibilizzazione che ha fatto Sakinè Gyanzis ha portato ad avere tante militanti, convincendo anche le loro famiglie, quindi non forzando assolutamente le persone a diventare, le donne a diventare delle militanti, ma costruendo insieme a loro la loro partecipazione a questo movimento, anche diciamo andando contro a quelle che erano le tradizioni, quindi svolgendo pure un'opera di demolizione degli stereotipi del sessismo, che comunque, insomma, ci dobbiamo immaginare non era poco, insomma, era pesante, così era difficile da scardinare, eppure con il suo paziente lavoro e con quello di altri appunto questo è riuscito, e perciò ecco, sicuramente non è tutto quello che, tutto quel poco, come hai detto giustamente tu, quel poco che si è visto in realtà tralascia tutto questo, perciò tende a evidenziare la figura della donna curda combattente come qualcosa di folcloristico. Non mi risulta che si parli molto di copresidenza, quindi di questo meccanismo per cui ogni istituzione locale dell'autonomia democratica, questo a nord prima, no, in Turchia e poi anche adesso in Rojava, è affidato a due persone, quindi a un uomo e a una donna. O nel caso che ci fosse, no, ci fossero più voti per una donna, anche a un uomo, però questo in una società che comunque, come quella curda, che è comunque una tra le più aperte, anzi forse la più aperta rispetto a questo nel Medio Oriente, ma che comunque diciamo scontava e sconta anche in particolare in alcune zone una visione della donna che la vede anche molto bene a casa, occuparsi della famiglia, e questo è stato comunque dirompente, e oggi quindi quello che vediamo non è certo improvvisato, è molto solido, come dicevi tu, e ci dovrebbe anche insegnare qualche cosa, insomma. Sì, per arrivare insomma anche all'attualità di questi giorni, insomma venerdì ci sono stati molti appuntamenti in tutta Europa, un appuntamento qui a Roma e uno ovviamente molto importante a Parigi per ricordare questa data e insomma per chiedere una verità che non è solo giudiziaria ma è anche una verità politica su quello che è successo. Certo, certamente. Allora, intanto in Italia, oltre che a Roma, ci sono state manifestazioni anche a Milano e Bologna, e anche chi non ha potuto manifestare, sappiamo che magari la comunità curda non è così numerosa in Italia come in altri paesi, quindi come in Francia per l'appunto, in Germania, ma comunque questa storia non la si dimentica. E io penso che noi dovremmo continuare anche a supportare le richieste di giustizia, appunto di verità per questo caso, perché è un caso emblematico e riguarda anche l'Europa, cioè riguarda noi, non possiamo, diciamo, non solo coloro che sostengono il movimento curdo, ma tutti si dovrebbero chiedere com'è possibile che nel centro di Parigi, in un palazzo sorvegliato e controllato dalla polizia, ma a fini ahimè repressivi, cioè per controllare i curdi che appunto si sospetta sempre che siano appartenenti al PKK, che è ancora sulla lista delle organizzazioni terroristiche anche dell'Europa. Quindi in un palazzo così controllato per questi fini, per tenere sotto controllo i curdi, cioè accade una cosa del genere. Come può accadere? Allora qui ci si pone degli interrogativi, i compagni curdi se li chiedono, su oltre che sul ruolo ovviamente attivo dei servizi segreti turchi nell'organizzare, nel pianificare, nel portare avanti questi omicidi, ci sia anche una non volontà troppo forte della Francia di fare luce su quanto è accaduto. E però è una vergogna per tutti, cioè che voglio dire, no? Che accada tutto questo nel cuore di una città come Parigi e che non si riesca a trovare i responsabili, soprattutto non li si voglia trovare, non li si voglia nominare, perché potrebbero essere pelati di intrecci di interessi che legano la Francia in questo caso alla Turchia, ma purtroppo sappiamo anche il nostro paese insieme a molti altri alla Turchia, e quindi la non volontà di fare piena luce. E la manifestazione di Parigi ha visto la presenza in particolare appunto dei curdi della comunità curda francese, ma anche di quella tedesca, che si è spostata anche da Roma, anche dall'Italia doveva partire un pullman che poi per motivi tecnici insomma non è potuto partire, ma comunque, come appunto avete detto, abbiamo manifestato anche qui. A Parigi immaginiamo anche insomma dovendo gestire una complessa situazione politica per scendere in piazza venerdì, visto che insomma era proprio in mezzo a insomma alle conseguenze della strage che c'è stata nella redazione di Charlie Hebdo. Sì, esatto, esattamente. Il corteo ha dovuto subire una modifica nel suo percorso, questo per motivi di sicurezza, ma comunque è arrivato per l'appunto in un momento in cui la Francia era rimasta appunto colpita da questi attacchi, più di un attacco, e con una situazione per l'appunto molto delicata, nella quale però i curdi diciamo in qualche modo hanno subito mostrato la loro sensibilità rispetto a un attacco di questo tipo, perché quando, va bene, possiamo discutere anche sulle parole, in questi giorni se ne sono scritte tante, spesso a sproposito, però diciamo, ecco, magari anche nella non così nella certe volte rozzezza magari di alcune parole o di alcuni concetti, per esempio la barbarie di ISIS, sulla quale io personalmente avrei qualche dubbio, nel senso che barbaro è una parola che tende a non farci capire esattamente chi c'è dietro l'ISIS. Sì, sì, si pensa a qualcosa di poco strutturato, di primitivo, di poco armato e forse anche di poco occidentale, insomma. Ecco, brava, esatto, cioè quindi diciamo magari anche quando ne discutiamo insieme escono fuori queste cose, però poi è anche vero che io pure mi fermo di fronte ai tipi di attacco che porta avanti l'ISIS a Kobani, a Rojava e comunque in tutto il Kurdistan, anche in quello iracheno, no? Contro gli esidi e tutto quanto. Ed effettivamente trovare un'altra parola in questi momenti è un po' difficile, no? Cioè, presuppone uno studio, un ragionamento lungo che spesso non si ha il tempo di fare. Ma intendevo tutta questa lunga premessa, scusate, di cui mi scuserete spero, per dire che in ogni caso i curdi trovano immediatamente un modo per far sentire anche la loro sensibilità, perché hanno subito e subiscono e continuano a subire attacchi di questo tipo, e quindi uno slogan per esempio come quello che è stato portato nella manifestazione di Parigi diceva: la barbarie uccide a Parigi come uccide a Kobane. Sì, anche perché questa vicenda di Kobane, come dice, svela anche la poca chiarezza, l'ambiguità che c'è dietro da parte, come dire, delle democrazie occidentali, nel senso che da una parte c'è tutta questa retorica sulla portare la guerra all'ISIS, dall'altra c'è questo tipo di atteggiamento che stavamo descrivendo verso chi la guerra all'ISIS la sta facendo in questo momento, e cioè insomma le truppe dell'IPC e dell'IPG, che ancora invece sono terroristi per l'Europa. Esatto, e che guarda caso poi abbiamo, come paesi occidentali, come coalizione, si è fatto un po' finta di aiutare, nel senso che sì, ci sono stati alcuni bombardamenti, è vero che questo ha aiutato un po' anche la resistenza delle YPG a Kobane, che però grazie alla sua determinazione è riuscita poi a riconquistare piano piano la città, e a costo a un prezzo che è quello del suo di sangue, insomma, quindi non quello di altri, e però appunto in questa forma soft, cioè che effettivamente io non sono una geopolitica, geostrategica, esperta, analista eccetera, ma io credo che è sotto gli occhi di tutti che se si volesse davvero intervenire per mettere fine all'espansione militare dell'ISIS non ci vorrebbe poi molto. Più pericolosa, devo dire, l'espansione ideologica, chiamiamola così, o l'attrattiva, la capacità di attrattiva che l'ISIS, o che richiamo al califfato islamico, può davvero esercitare su giovani, giovani perché appunto sono quelli più in grado di combattere, che cresciuti magari anche in Europa sentono di partire per questo sogno del califfato, o per inseguire il paradiso e queste altre cose. Cioè io dico che effettivamente questo è un grosso problema che ce lo dovremmo porre, e che in questi anni forse anche a sinistra abbiamo un po' sottovalutato questi aspetti. Sicuramente la responsabilità dei governi nell'ignorare tutto questo e nel così lasciare spazio al discorso razzista, islamofobico, contro l'immigrazione, che poi appunto non ha nulla di scientifico, perché come si è visto non sono stati tre arcati a Lampedusa che hanno fatto l'attacco della scorsa settimana a Parigi, ma tre persone che sono cresciute lì, e quindi diciamo forse ecco è arrivato il momento davvero di riflettere, di pianificare sì. Una risposta anche a questo, cioè non si può combattere l'ISIS o il califfato solo militarmente, per come la vedo io, bisogna armarci anche di ideologia, anche di politica, ed è quello che secondo me il movimento curdo fa. Devo dire però, questo non, scusami, mi è venuta in mente una cosa che rispetto appunto all'ipocrisia dei governi e anche alla marcia che c'è stata, no? L'hanno chiamata la marcia della Repubblica in seguito agli attacchi di Parigi, e c'è un video che circola tra i curdi e anche circolato in Turchia, che mostra la testa del cordone, no? dei grandi, dei potenti del mondo, tra cui c'è il primo ministro turco Davutoğlu e Hollande, che saluta e bacia tutti questi vari personaggi, però a lui proprio in segno di sfregio lo saluta molto freddamente per un secondo e poi passa oltre. Allora, questi sono anche messaggi, impariamo anche a distinguerli, nel senso sì, l'ipocrisia è chiaro, questa volta forse però Hollande un minimo gesto, diciamo, per dire a Davutoğlu sei qui ma tu sei un sostenitore di ISIS, la Turchia sostiene ISIS, beh insomma l'ha fatto, quindi diamogliene atto. Sì, e poi ovviamente certo, è anche importante. Poi c'è tutto il discorso interno, diciamo, a quello che si autonomina Occidente, alla NATO, perché poi appunto la Turchia è un paese NATO, e perché poi appunto si può parlare di come è nata questa ISIS, di dove sono venuti i fondi, di dove, insomma, se ne è parlato anche tante volte di come l'Occidente ha armato gruppi in una funzione o in un'altra, e insomma le responsabilità, oltre a quelle sociali nei singoli paesi che tu, di cui tu stavi parlando, rispetto all'immigrazione, rispetto al rischio ideologico di trovare nell'ISIS un qualche riscatto sociale da parte di seconde, terze generazioni, esiste anche poi però tutta la compromissione e l'ambiguità a livello geopolitico internazionale. Assolutamente, certo, assolutamente. Infatti sono diciamo, sono aspetti che vanno però affrontati con appunto con un approccio diverso, cioè quello ideologico. E cioè, noi dobbiamo capire anche che il tipo di propaganda, no, che ISIS riesce a fare, che davvero può avere un'attrattiva su alcune persone, su alcune fasce di popolazione, di persone. E non lo so, vedere le biografie di queste persone, io penso che sono fratelli e sorelle, no? Nostre, cioè non sono i potenti della terra. Allora, com'è possibile che si riesca a convincere un qualcuno ad arrivare a tanto, a farsi usare così tanto anche per delle strategie, dei disegni che sono disegni di distruzione, di morte, o di controllo totalitario di una società? Cioè il modello del califfato, insomma, penso che davvero ci ricorda uno stato totalitario dove chi non si adegua, chi non è omogeneo, chi non la pensa in quel modo viene semplicemente eliminato. Sì, e fra l'altro nella questione di genere, nelle questioni di genere appunto possiamo parlare della riduzione in schiavitù, degli stupri di massa, dei matrimoni forzati, insomma questo poi è il modello per quel poco che ci arriva. Esattamente, quindi da una parte c'è questo, dall'altra il modello o l'esperienza, diciamo la pratica, che però deriva, come abbiamo detto, da anni e anni di lavoro politico fatto prima, del movimento delle donne curde. Ed è veramente un'arma anche ideologica questa, no? Cioè che ci può dare un'indicazione su che possa esserci utile anche proprio per andare contro questa fascinazione che può attirare verso il califfato, verso l'ISIS. Io per esempio all'inizio mi chiedevo, anche io lì con la bocca aperta, ma com'è possibile che delle donne, delle giovani donne dall'Europa possano decidere di andare a Raqqa nel califfato islamico a combattere per l'ISIS, o poi più facilmente a finire, diciamo, sposate a qualche combattente dell'ISIS, visto che il ruolo delle donne secondo loro è quello, quindi neanche a combattere. Cioè sono domande che secondo me ci dobbiamo porre, che saranno anche casi sporadici e isolati, però esistono. Quindi adesso a prescindere anche lì dal ramo che ci faranno i giornali mainstream, dove non vedono l'ora di pubblicare la foto della giovane convertita all'Islam che va a combattere e poi si ritrova incinta e quindi chiede di tornare in lacrime. Queste ovviamente sono un po' caricature, ma che esista però una fascinazione che possa prendere anche le donne è un problema che ci dovremmo porre, secondo me. E per fortuna in questo appunto l'esperienza, l'esempio anche e la pratica delle donne curde a mio parere è molto prezioso. È magari non lo so, meno, io a volte vi dico la verità, ho avuto difficoltà nella mia esperienza politica, la mia militanza politica, ad avvicinarmi e soprattutto a partecipare diciamo regolarmente magari a gruppi di donne che mettevano in discussione molti concetti, molte cose che mi sembravano a volte non lo so, come tra virgolette un lusso, no? Perdonatemi la, così, la rozzezza della, della, dell'osservazione. Mi sembrava come qua, cioè, una, che ne so, una, ci sono cose più importanti, ma queste, voglio dire, no, ne discuteremo, sì, però insomma adesso bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Forse, cioè, anch'io per la prima volta mi rendo conto come in realtà questa esperienza mi faccia capire come bisogna mettere invece in discussione tutto e subito, magari non facendosi troppi discorsi, ma con la pratica, ecco, con l'esempio. Questo sì che mi piace davvero vedere come alle parole segua un comportamento coerente, e questo credo che sia possibile usarlo come antidoto, se vogliamo, o come sì, come antidoto, diciamo, anche a certe fascinazioni che invece rischiano di trascinare pezzi della nostra società, di quelli che potrebbero essere i nostri compagni, le nostre compagne, in braccia mortifere e assolutamente negative. Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere, ma ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa, lo sai, sono sempre aperti, e al martedì, peraltro già da ormai molto tempo, stiamo dedicando uno spazio ormai settimanale, insomma, alla lotta delle curde. Abbiamo mandato anche molti audio del convegno, insomma, che c'era stata la Casa Internazionale delle Donne, poi compagne che sono andate in Rojava, hanno riportato interviste, incontri, e quindi insomma questo continueremo ovviamente a farlo e vogliamo continuare a farlo. Detto, ecco, io infatti volevo aggiungere questo, che mi sembra davvero che sia che si stia anche qui finalmente respirando un po' di quest'aria del movimento curdo. In che senso? Abbiamo aperto, appunto, ricordando Sakine Jandes e le altre due compagne che sono cadute, ma il movimento curdo, il movimento anche delle donne curde, è qualcosa per cui se un compagno cade, se una compagna cade, ne nascono altri 10, altri 100. Ecco, io spero proprio davvero che, e sento, ho questa sensazione che stiamo andando un po' in questa direzione anche qui, con l'interesse solido e duraturo che appunto ci possono mettere le compagne che sono state giù, gli altri compagni che sono stati alla frontiera tra la Turchia e la Siria, a dare il loro contributo, a riportare quello che succede, ma anche, e questo è anche un rinnovato appello, a recarsi lì per fare qualcosa di concreto, quindi per prendere parte a quest'opera di solidarietà collettiva, quindi non i buoni che vanno ad aiutare i poverini, ma a costruire qualcosa insieme di nuovo e di rivoluzionario. E approfitto anche per dire, visto che hai nominato il convegno, che sono in uscita due testi. Uno è proprio sono gli atti del convegno che c'è stato a ottobre a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, con relatrici curde che ponevano appunto nei loro interventi questi ed altri temi, analizzandoli in termini di femminicidio e anche di femminicidi politici. L'altro è il primo volume dell'autobiografia di Sakine Jandes, che il cui nome di battaglia era Sara, quindi Evala Sara, la compagna Sara, e appena tradotto in italiano. Anche questo è, io credo, un conoscere questo testo, leggerlo diciamo dalla penna, direttamente dalla penna di Sara, ci può aiutare ancora a capire molto, molto meglio, diciamo, come si è sviluppato questo movimento. E perciò, insomma, io invito, ecco, a leggerlo. E il libro si chiama Tutta la mia vita è stata una lotta, e descrive molto bene quello che ti dicevo prima, cioè quello che significa passare dalla teoria alla pratica, cioè praticare quello che si dichiara. E magari dacci il tempo di leggerlo e poi lo presentiamo volentieri, certo, anche a questi microfoni, molto volentieri. Benissimo, perfetto, benissimo. Grazie. Io vi ringrazio, grazie dello spazio. No, grazie a te per la disponibilità. A questi temi. Ciao. Ciao, ciao.